Intervista col maligno. Il ricordo di padre Domenico Mondrone. Il prologo alla vicenda. L'idea di questo scritto mi venne improvvisa un pomeriggio di agosto dello scorso anno di grazia e di disgrazia 1974. Fu così da oltre due mesi? Forse anche più? Quasi tutti i giorni. Alle ore 15 precise. Il secondo canale della Rai mandava in onda una rubrica intitolata Interviste impossibili. Si trattava di incontri tenuti tra letterati, giornalisti e studiosi di varia cultura con uomini del passato, personaggi del pensiero, dell'arte, della politica entrati, bene o male, nella storia, con un nome più o meno famoso. Secondo programma non mancava di originalità e, sebbene venisse a cadere nell'ora della siesta, lo seguivo sempre con viva curiosità. Erano incontri, dicevo, di uomini di oggi con altri di ieri per interrogarli e farli parlare e dare spiegazioni di certi loro atti e confessarne le intenzioni segrete. Ora costretti dall'incalzare delle domande, ora messi nella necessità di giustificarsi contro le bugie di qualche storico. I personaggi intervistati apparivano di solito fedelmente centrati nell'ambiente del loro tempo. Le risposte erano aderenti alla vita e al pensiero che li caratterizzarono. E quando gli intervistatori erano veramente bravi, in poco più di un quarto d'ora ci davano ritratti storico-psicologici di una felice e vivacissima rifinitura. Uno dopo l'altro vennero interpellati, senza alcun ordine cronologico, Attila, Marat, Casanova, Marco Polo, Pitagora, Copernico, Druto, Diderot, Marco Aurelio, Pilato, Cleopatra e così via. Tra l'una e l'altra di queste interviste si affacciò alla mia mente un'osservazione molto stramba, ma anche un'intervista a Satana. Sarebbe interessante. E oggi più che mai? Visto che ha convinto molti che lui non esiste. Qualche tempo dopo, ricordando le reazioni al discorso del Papa sul demonio. Ma sì. Un'intervista con Satana. O meglio coi maligno. Ci andrebbe bene. Una persona dotata di fantasia riuscirebbe a richiamare l'attenzione su quel soggetto e forse anche a far riflettere qualcuno. L'idea ogni tanto si riaffacciava e cominciava ad apparirmi come una cosa fattibile. Si potrebbe dire questo, impostare così un episodio, introdurre questo o quest'altro aspetto, a poco questa idea divenne per me come un tarlo. Un'intervista col maligno. Non pensavo affatto di farla io. Vediamo allora a chi potrei affidarla. Cominciai a pensare a dei nomi e ne passai in rassegna parecchi. Ci pensavo su. Ma poi per un motivo o per l'altro li scartavo. Mettersi a dialogare col diavolo? Sia pure sul piano della fantasia. Non è facile. Nessuno accetterebbe un'idea così stramba e, oltretutto, fuori dal tempo. Roba da medioevo. Un po' alla volta mi accorsi che quando pensavo di accantonare l'idea cadevo in un nervosismo strano. Se invece lasciavo aperta la possibilità di fare quell'intervista mi sentivo sereno. Finalmente. Una sera di settembre il nodo si sciolse. Mi recai in una chiesa dove è venerata una immagine della Madonna molto cara al popolo romano e la trovai insolitamente affollata. Avvenne l'incredibile. Appena varcata la soglia, mi si avvicinò una donnetta di mezza età, sconosciuta, con due occhi luminosissimi e dolci. E tutto a un tratto mi disse: quando si decide a scrivere quelle cose? E mi guardava come per interrogarmi con gli occhi. Scrivere quali cose? Via! Lo sa meglio di me. Ma chi è lei? Basta. Basta. Se lo veda con quella lì, e indicò il quadro della Vergine, vada a sentir lei che cosa le dice. Un folto gruppo di turisti invase in quel momento l'ingresso. La donnetta fu travolta nella confusione e la persi di vita. Che cosa strana! Pensai. Un'allucinazione o un avviso del cielo? Mi sentii come smarrito e ridicolo. Soprattutto ridicolo. Ma poco dopo, ai piedi della Vergine, il dubbio che avevo dentro si sciolse come niente. Sentii come una spinta dolcissima e ferma a riflettere sull'argomento e a vedere di fare qualcosa. Fissando la cara immagine, non le chiesi nulla in merito, perché già sentivo dentro di me la promessa della sua assistenza materna. E va bene, dissi uscendo, cercherò di imbarcarmi in questo affare. Scriverò io questa intervista stranissima. Ne verrà fuori qualcosa che mi coprirà di ridicolo? Ma almeno mi sarò levato un fastidio. Gli incontro una visita inaspettata. Quella sera stessa. Dopo una cena piuttosto frettolosa e svogliata, mi ritirai in camera a sbrigare un po' di corrispondenza. Di lì a una mezz'ora presi a recitare l'ultima parte della liturgia delle ore. Mi segnai devotamente e cominciai. Gesù. Luce da luce. Sole senza tramonto. Tu rischiari le tenebre nella notte del mondo. In te. Santo Signore, noi cerchiamo riposo dall'umana fatica. Al termine del giorno. Notai. Questa volta. Che più andavo avanti, più cresceva in me il desiderio di indugiare in quella preghiera abituale. Sensi e gusti nuovi affioravano da quelle parole antiche e semplici. Alla fine, baciai il breviario e lo misi da parte. E adesso che cosa faccio? Qualche volta appuntavo delle note rapidissime sul diario. Tentai di farlo. Ma presto me ne passò la voglia. Voltandomi, lo sguardo si incontrò con una immagine della Madonna dinanzi alla quale quella sera ero andato a pregare. Ebbi voglia di trattenermi con lei e preso di tasca il rosario mi segnai. Le Ave Maria mi venivano su dolcissime e come una più intima presa di contatto con lei. Non era terminata una decina che mi trovai seduto e con la penna in mano. Cosa strana. Per fare che? Un blocco di carta era lì sul tavolo. Cominciare a scrivere qualcosa di quella diavoleria? Non ci pensavo affatto. Non avevo nulla di preparato per la testa e la fantasia non pareva favorirmi. Accostato. Così. Per fare qualcosa. Il blocco di carta. Scrissi in alto. Intervista con Satana. No. Corressi. Meglio dire col maligno. Questo secondo appellativo è meno logoro. e restai con la penna in aria. In quello stesso istante avvertii lungo la schiena un improvviso brivido di freddo, che subito mi avvolse tutta la persona. A fianco della scrivania, a sinistra, la finestra era completamente aperta. Quando istintivamente mi alzai per chiuderla, avvertii che da fuori veniva invece un'aria calda. Era infatti una sera di settembre. Mentre mi toccavo le guance e la fronte, chiedendomi se non fosse per caso un sintomo di febbre, una lama addirittura gelida mi attraversò la persona e ne ebbi uno strano scossone di paura. Mi sedetti. Rimasi immobile per un po'. Poi tentai di buttarmi sul letto, così come stavo. Non riuscii a muovermi. Mi sentivo inchiodato alla scrivania. Non per una forza che mi facesse violenza dal di fuori, ma da un senso di inerzia totale, una specie di legamento che veniva da lì dentro. Invocai mentalmente la Vergine che mi guardava dalla parete a qualche metro di distanza e ne ebbi un'improvvisa carezza di pace. Mentre ringraziavo la Madre Celeste, la sedia, la scrivania, quasi tutta la camera ebbero un sussulto misterioso. Maligno, hai chiesto di intervistarmi. Eccomi. Era una voce cupa, aspra, metallica, una voce che non seppi precisare da quale punto venisse, ma che mi scateò addosso un lungo brivido di paura. Restai per un po' senza fiato, poi presi coraggio. Padre Mondrone, ma tu chi sei? Maligno, non fare lo stupido. Sono io. Non avevo mai pensato di dover passare con la mia intervista dal piano della fantasia a quello di un a tu per tu col maligno. Su un angolo della scrivania c'era il rosario. Istintivamente lo afferrai come arma di difesa. Maligno, butta via quella robaccia. Se vuoi parlare con me. Padre Mondrone. Robaccia. Maligno. Escrementi di capra legati insieme. Padre Mondrone. Se per te è robaccia io la bacio e a tuo dispetto me la avvolgo qui attorno al polso. Per sicurezza. Vedo che deve farti paura. Vigliacco. Maligno. Quella per me è una ghigliottina. Padre Mondrone. Tanto meglio e grazie di avermelo detto. Cercavo di spiegarmi come percepissi quella voce così vicina che non proveniva da un punto preciso della camera. Né mi saliva da lì dentro. L'avvertivo? Però? In modo chiaro. Sempre in tono minaccioso e sprezzante e carico di una rabbia beluina. Padre Mondrone. Intanto? Come sei venuto? Chi ti manda? Maligno. Sono stato costretto. Padre Mondrone. Costretto da chi? Seguì un silenzio agghiacciante. Su. Costretto da chi? Maligno. Da quella là. Urlò questa risposta con un disprezzo e un odio indescrivibili. Padre Mondrone. Chi è quella là? Gli chiesi pur avendo capito. Maligno. Non farò mai quel nome. Padre Mondrone. Ti scotta tanto? Maligno. La odio infinitamente. Perché è la creatura più alta e più santa. Masticando le parole con rabbia disse. Lui l'ha voluta così a mio dispetto. perché fosse la mia più schiacciante umiliazione. Restai sbalordito. Padre Mondrone. Come mai? Sei il padre della menzogna e dici una verità così grande? Non ti accorgi che questa è una lode immensa? La mia domanda restò senza risposta. Per quella volta fu tutto. Due grado incontro la ribellione diabolica. Passò qualche giorno senza nulla di nuovo. Non sapevo che cosa pensare. Invocare il ritorno di un così singolare interlocutore non ne avevo il coraggio. Quel primo incontro aveva lasciato in sospeso più di una domanda. Ma fu troncato sul meglio. Quest'ultima risposta, così inattesa, mi lasciò una grande gioia. Una mattina. Avevo appena finito di celebrare la messa quando fui preso da una voglia insolita di andarmene subito a casa. Mi attirava lo strano sentore di qualcosa di inconsueto. Trovai che la sedia messa accanto alla scrivania girava vorticosamente su se stessa come una trottola. Quel tizio deve essere già qui, pensai. Infatti, ecco i soliti improvvisi brividi di freddo gelido. Non mi ero sbagliato. Mi sedetti. Invocai mentalmente la Madonna e attesi. Maligno. Sono qui. Che altro vuoi chiedermi? Parve che quell'essere tenebroso fosse stato messo a mia disposizione. Padre Mondrone. Anzitutto devo ringraziarti per l'alto elogio che l'altra volta hai fatto alla Madonna. Mi ha molto colpito quella tua risposta. E ancora non riesco a spiegarmi come ti sia sfuggita. Maligno. È lei che mi costringe a parlare così. Lo vuoi capire? Lei mi costringe. Lo fa per far piacere a te e per umiliarmi. Ma tu? Ricordati. Me la pagherai. Tu non riuscirai mai a comprendere quale tortura è per me doverle obbedire obbligandomi a dire certe verità. La verità io la odio. Perché la verità è lui. Capisci? Tu rimani inorridito dinanzi agli strazi a cui tanti miei subalterni sottopongono i loro prigionieri politici. Ricorrendo alla siero della verità. Al cosiddetto lavaggio dei cervello e alla tortura per portarli all'autocritica e strappare loro confessioni prestabilite. Peggiore è il supplizio a cui da quella la vengo sottoposto io per indurmi a sputarti in faccia certe verità. Per questo ti dico che me la pagherai. Padre Mondrone. Grazie anche di questo che mi dici. Ma se lei è con me non mi fai paura. Maligno. Me la pagherai? Ti ho detto. Padre Mondrone. Sia pure. Però continua a parlarmi di lei. Maligno. È la mia più implacabile nemica. Padre Mondrone. Lo credo bene. È la donna predestinata a darci Gesù. Il nostro Redentore. Il riparatore di tutte le tue malefatte e, tra queste, specialmente il peccato e la morte. E lei? Per virtù del suo figlio. A tuo scorno. Ha vinto tutto questo. Un lungo silenzio di attesa. Capisco che non hai troppa voglia di parlare di Maria. Sei infinitamente superbo e il ricordo di lei è troppo schiacciante per te. Hai detto bene. È la tua umiliazione più grossa. Ma in nome di lei, rispondi. Credevi di aver ottenuto una vittoria piena strappandoci la nostra madre Eva? Non sospettasti nemmeno che Dio ti avrebbe stravinto con Maria? Una madre infinitamente più grande di quella che ci avevi tolta e con la quale ci mandasti alla rovina. Dio ci ha dato Maria e l'ha fatta madre.